La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Contro l'agguato della vanità, in casa di nonna Santina si portava spesso l'esempio di Elvira, una sua figlia, morta per il troppo specchiarsi, dicevano a noi bambini. Ci dicevano che il diavolo l'aveva tirata nell'acqua bollente e la giustizia di Dio l'aveva colpita. Questo a dimostrazione del fatto che c'è un punto dove i disegni di Dio e quelli di Satana coincidono e diventano un solo destino. In questa torre, la torre del macellaio, quando il vento portava l'odore degli agnelli ammazzati, quando l'odore del sangue forzava le porte, tornava il segreto di Elvira. Perché, venimmo poi a sapere, non era vero che Elvira cercasse negli specchi la propria bellezza. Elvira, nelle pentole lucide, nel riflesso dell'acqua, cercava il suo sorriso per Guerrino del Cionco, nemico della famiglia e di ogni decenza. Guerrino non aveva Dio né mestiere e diceva di non aver bisogno di nessuno. Viveva con le bestie, quelle degli alberi e quelle di fiume. Con loro parlava e la notte seguiva fino alla fine il cammino della luna con un bastone di salice sulla punta del quale faceva roteare un vecchio cappello. Guerrino era un uomo inutile. Non serviva alle leggi del male e ignorava il bene. La gente gli diceva «Sei come un animale» e lui annuiva e piegava il capo come fanno i corvi per dormire. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Senza che nulla le facesse immaginare la morte, Elvira una notte uscì ungendo i chiavistelli della torre e corse verso il bosco. Guerrino l'aspettava sotto una quercia. Guerrino roteò il cappello in cima al bastone fino a lanciarlo sulla testa di Elvira in corsa, che sotto il cappello si fermò in un cono d'ombra. Quando Santina venne a sapere che sua figlia aveva un amante, non pianse, come fanno le madri qualsiasi. Mise invece a scaldare il pentolone dell'acqua per il bucato. Fu lei a chiamare la figlia perché controllasse che l'acqua bolliva. Elvira controllò e fu allora che Santina la spinse nell'acqua e la sua mano di ossa la tenne ferma mentre il calore sformava quel volto, lavando ogni traccia di vita, ogni traccia di Guerrino. Elvira si fermò nella foto di una tomba affrettata, ma prima che il suo volto potesse perdersi tra gli altri volti, prima che la sua faccia invecchiasse, prendendo l'aria saggia dei morti che non aspettano più niente, Guerrino entrò di nascosto nel cimitero. Aspettò il sonno del guardiano e fracassò il marmo. Trasse fuori dalla tomba Elvira morta e la stese sull'erba. Le aprì le braccia che nonna Santina le aveva messo in croce e la penetrò, pronunciando una formula così terribile che le croci più alte del cimitero si schiantarono in un baglione d'inferno. E il guardiano si svegliò, pensando ai soliti scherzi dei morti. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Il guardiano poi, nella sua ignoranza, disse che col sacrilegio Elvira era resuscitata. In verità Elvira poteva parlare e udire ogni voce, fare tutte le cose dei vivi, in una vita apparente che alla vita in tutto somigliava. E subito ebbe freddo. Guerrino la coprì col suo cappello e lo portò in un paese lontano, dove Elvira poteva nascondere la sua morte. Guerrino trovò lavoro e divenne come tutti. Elvira poco a poco dimenticò di essere morta. Di martedì faceva il bucato, di venerdì onorava il digiuno, era come le altre donne. Per Pasqua Elvira andò alla fiera, comprò la cipria e calze di lana per il suo amante. Alla fiera c'era un uomo con la fisarmonica che girava per tutte le piazze facendo una musica allegra. In quell'allegria Guerrino incontrò Elvira, la prese sotto braccio e si allontanarono verso casa, camminando al ritmo di quella musica. Quando scomparvero, L'uomo ripiegò la fisarmonica e nel paese ci fu silenzio. Fu quell'uomo a perderli. Corse ad avvertire nonna Santina. Nonna Santina allora camminò fino al paese di Don Ignazio, il prete, il suo pigrissimo fratello. Entrò nella sua casa di debole azzurro e quando lei entrò ogni cosa si fece scura e Don Ignazio guardò perplesso il suo bicchiere e lo beve in fretta prima che mutasse del tutto colore. Era così ubriaco che appena seppe che Elvira aveva ingannato la vita tradì un certo sorriso di vecchio. Non bastò una visita per convincere il prete. Con mille astuzie Santina cercò di pungolarlo, ma Don Ignazio voleva soltanto dormire ed era un poco sorpreso del fatto che Elvira, potendo riposarsi per sempre, avesse preferito tornare alla vita. Grande era la pigrizia di Don Ignazio e grande il fastidio per le insistenze della nonna. Il prete capì che finché non avesse fatto quanto lei chiedeva, non gli sarebbe stato più possibile dormire. E solo per questo si lasciò caricare su un carretto coperto da un drappo nero e andò a cercare Elvira e Guerrino. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Quando Elvira vide apparire Don Ignazio, capì che non poteva più nascondere la sua morte. Lui si sedette in cucina. Lei, in silenzio, gli servì un liquore fatto in casa. E guardandola, Ignazio si accorse che la nipote era incinta. E come sempre un poco gli venne da ridere, non per cattiveria, ma perché confusamente le azioni degli uomini gli ricordavano l'incorreggibile stranezza del mondo. Era quello il momento in cui il prete avrebbe dovuto pronunciare le maledizioni che nonna Santina gli aveva fatto pazientemente imparare a memoria. Ma era mezzo addormentato e seduto con un bicchierino di fronte tornò come sempre benevolo e vago. Le maledizioni divennero pigre ammonimenti e invece di creatura del demonio diceva «Figlietta mia, sei incinta!» e invece di «carne corrotta dalla morte» disse con un sorriso «però sei bene in carne!» e poi ebbe un attimo di involontaria lucidità e disse «tua madre ti vuole morta, piuttosto che con un amore proibito». Elvira rispose piano «mia madre mi ha uccisa». E Ignazio, nella sua sordità che escludeva il dubbio, sorrise e le porse il bicchiere vuoto dicendo «sì, grazie, volentieri». Elvira gli servì un altro po' di liquore, con la rassegnata tristezza che certe volte è la stessa per i vivi e per i morti. E senza discutere, tornò lentamente alla morte. Prese da un cassetto il suo vestito bianco, ben lavato e stirato, odoroso di spigo. Da sola lo indossò, da sola si mise il rosario fra le mani. Con la cipria della fiera si diede un tocco di bianco, quasi inutile, perché aveva già incominciato a impallidire. I slova i puli, i любовь и кровь, времени не будет помириться. La guardiana del faro. Qui capitaneria di porto, è in linea un certo Giovanni che chiede di Barbara Alberti. Pronto Giovanni? Sì, pronto? Sono qua, mi dica, perché mi chiama? Mi chiamo perché volevo un suggerimento. Che le succede? No, niente, io convivo con una donna adorabile. L'amo, funziona tutto, tranne che ci sono dei giorni in cui si litiga per gelosia. Non riesco a capire se è colpa mia. Cioè, ma chi è geloso? È lei gelosa? Sì. Lei Giovanni o la... No, è lei gelosa. Anch'io la sua amata? La mia adorabile compagna. Anch'io sono geloso. Però lei è più esageratamente gelosa. Ora, vorrei capire se è colpa mia o è... perché non voglio incolpare a lei. Perché ma perché, per esempio, mi racconti un episodio di questa gelosia? Sono quasi 15 anni che faccio la guardia giurata, conosco tante persone, maschili, femminili, sicché vedendosi tutti i giorni nasce un rapporto, diciamo, amichevole, che uno si saluta con più confidenza, ecco, no? E lei lì, quando vede quello, dice, ma quella chi è? Ma quella chi non è? Ma come mai ti saluta così? Ma è per lavoro, amore, non è che... Lei si interrompisce. Poi è successo pure un paio di volte che questi maledetti cellulari che si sbagliano, arrivano qualche messaggio, qualche chiamata, no? Dice ho sbagliato. E neanche farlo apposta, sono sempre femminili. E allora lei lì diventa, dice, ma tu c'hai un'altra, ma tu di qua, ma tu di là, ma non è vero. Ma lei, Giovanni, mi dica la verità, è un pochino civettone, cioè nel senso che in fondo... Ma civettone siamo tutti, cioè gli uomini lo fanno, poi a parte il mio mestiere, a chi è che non piace guardare? Però l'importante è che uno guarda ma non tocca. Beh, insomma, per noi donne mica non funziona mica così, Cori, per noi guardare più che toccare. E lei com'è geloso, invece? Ho piena fiducia in lei e non sono affatto geloso, tranne che lei è straniera, tranne che un giorno in vacanza eravamo in un posto dove c'era un suo connazionale. E l'ha salutata, dice anch'io sono del tuo paese. E si sono messi a parlare nella loro lingua, che io non capivo. Vedendo il sorriso di questo, lì sono diventato geloso. Perché era un sorriso demoniaco, un sorriso che preludeva ad altro che una chiacchierata. Quindi lei è geloso a ragion veduta, mentre sua moglie è per sport. Sì. Per passatempo, dubita di tutti. Ma senta, tutte queste telefonate finte che arrivano, cioè sbagliate, ma sono tutte sbagliate veramente? O sì, non sì, sarà... sì, no, sinceramente, alla mia età... Quanti anni ha? Io ce l'ho 55 e lei è 12 anni più giovane di me. Ma i vecchi sono birbi. Senta, scusi. Allora guarda, vivi da molto tempo con questa donna, sai benissimo che ci sono come dei tic coniugali che scattano. Cioè si dicono sempre le stesse cose, la gelosia diventa anche una forma di pigrizia e una forma quasi per carpire l'intimità dell'altro. Però, ma a te ti fa più soffrire o più sei... Mi fa soffrire perché dico... Ma non come? Ti senti lusingato tu da questa cosa? No, anzi, io sono così arrabbiato, così nervoso perché dico guarda, ma io vivo per te. Questo non la calma? E non la calma, mentre se è all'incontrario e lei mi dice no, guarda, io sono pulita, e allora io la credo. Perché lei non mi crede? Mi creda, Giovanni, passerete tutta la vita così. Non c'è nessun consiglio e nessuna, perché l'unico consiglio che avrei voluto darle, tanto lei lo segue già per conto suo, perché io per esempio sono stata molto gelosa e ho tormentato una persona che era di una fedeltà limpidissima, veramente impeccabile, sentita, eppure sarà che io lo trovavo troppo bello per me, non mi pareva vero. Ogni volta che andavo a comprare le sigarette pensavo ma questo non torna, perché è possibile che ha scelto proprio me? Mi sembrava proprio impossibile questo grande miracolo che mi era successo, e quindi ero gelosissima, ma non ero gelosa aggressiva, ero gelosa così triste perché pensavo ma sicuramente al primo sguardo se ne va, e invece passavano gli anni e stava sempre con me. E allora quando lui capiva, lui aveva compassione di me, capiva che era una specie di malattia, che era una malattia morbosa, che era veramente la maschera di tutte le mie insicurezze. E allora se lui mi avesse detto sei pazza, cosa dici, perché spesso specie maschi si arrabbiano in questa maniera qui, io sarei morta di dispiacere. Invece lui aveva compassione di me, mi voleva veramente bene, e allora mi ricordo che mi prendeva fra le braccia e mi diceva ma io voglio bene solo a te, ma guardami negli occhi. Io mi ricordo che di volta in volta lui riusciva a calmarmi e riuscivamo a volerci bene, riusciva a riportarmi alla confidenza e non appunto alla ripetizione coniugale di questo schema. Naturalmente poi 2 ore dopo era uguale, sì, però di volta in volta, però bisogna accontentarti quando c'è un malato in casa, come ero anch'io, come sua moglie, bisogna avere molta pazienza e volerli bene anche per questo, perché ha tanta paura di perderla. Sì, ma, le faccia di buffetti e poi la butti a ridere, ma la butti a ridere ma senza offenderla, e no, la faccia sorridere, perché guardi che quando ci fate ridere voi a noi poi passa tutto. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Dura da 5 mesi, lui mi ama, dice pazzamente, mi telefona, mi desidera, poi andiamo a letto e non è all'altezza della sua passione. Non mi lascia insoddisfatta, anzi è appassionato al mio piacere e mi sussurra favole erotiche molto belle, ma non mi penetra. Io cerco di aiutarlo parlandone, finché perdo la pazienza e gli faccio una scenata. Lo desidero con rabbia, è un martirio. Sharon. Cioè, insomma, se ho capito bene, tu lo curi prendendolo per la collottola e gridandogli «Perché non funzioni, disgraziato?» Ti cito Oscar Wilde. I rimproveri non hanno mai fatto drizzare il fallo. Forse, guarda, se rinunziassi alle parole, in una storia che in fondo è una storia ardente, è una storia, una grande storia erotica, potresti avere delle grandi sorprese se ti lasciassi andare senza farne motivo di lite, se non volessi legalmente, per legge, quello che non ti dà. Se ti abbandonassi a questo piacere che è solo l'anticamera del piacere, ma anche dolce, morboso, forse in lui si risveglierebbe questa potenza che adesso dorme. Anzi, sogna. È una potenza che sogna e sognando ti tiene fra le braccia. Ma forse la sua potenza è la sua bravura di affabulatore erotico. Il fatto è che tu non lo ami. Non abbastanza. Non ti piace abbastanza. Per te è una specie di debitore insolvente che deve darti quello o guai. Tieniti caro il tuo martirio. È metà del tuo desiderio. Qui Capitaneria di Porto. È in linea Tiana Jerkovic per Barbara Alberti. Tiana Jerkovic è tornata da Belgrado e allora ho molta nostalgia di una delle sue storie. Tiana? Sì, ci sono. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ci racconti oggi? Ma oggi vorrei raccontarti una cosa insolita. Siccome tu sai che cosa significa per me tornare sempre nella mia città, vorrei raccontarti un po' di Belgrado. E poi per certi versi anche questa è una storia d'amore, sempre d'amore, eh? Perché Belgrado è come una donna che incontri per caso magari in una qualche comitiva improvvisata, ad una cena, in qualche occasione di festa, dove sei andato a malavoglia. Una donna che al primo sguardo non ti colpisce, perché la città al primo sguardo non capisce, troppo discreta, modesta per certi versi, senza dei segni particolari. Una che tu non sceglieresti mai. Succede poi, ed è sempre così, che la premurosa padrona di casa, la vita, ti assegna il posto proprio accanto a lei. E uno che è un grande gentiluomo comunque se ne rammarica, pensando proprio lì, cavolo, sarebbe stato meglio sistemarsi vicino alla beloccia bionda e abbondante, l'altra, la mora e marmora, però pazienza. Poi, conversando con lei, questa donna città, te ne accorgi che ci si racconta. Ti coglie la sua voce calda dietro il sipario delle labbra rosa, né troppo carnose né volgarmente invitanti. È come se fossero tratteggiate da una matita innamorata che al posto del cuore di grafite ha i tessuti rosei. Allora non riesci a non guardarla e ti coglie impreparata questa città donna e anche la voglia crescente di ancora. Sono poi inutili gli inviti di altri commensali che ti vogliono coinvolgere nelle loro conversazioni. Sai di non avere tempo. E la osservi, il suo sguardo sincero, verde, qualche volta dorato, bianco, di tutti i colori. Senza parlare troppo, questa donna città ti trasmette la parola, lasciandoti anche il tempo per ascoltare. Ti concede tutte le pause che desideri per poterla assorbire, la sua parola emozione. Mentre il chiasso della comitiva torna alla mensa delle città belle antiche, imbandita a festa, ormai spogliata per il tanto masticare, porgere, bere, svuotare, tagliuzzare nella storia, complimentarsi, sospirare per la pienezza, va sempre crescendo le bellissime donne che hai incontrato, le donne città, forse anche desiderato un po' all'inizio della serata, hanno i nasi lucidi, i loro capelli ora ti sembrano un po' troppo tinti, è il profumo troppo dolciastro. È allora che l'ordinaria, la mia Belgrado donna, ti sfiora casualmente con le dita. Scopri in lei l'abbraccio del virile Danubio, l'amante lento, dolce e premuroso, con la sava, l'insaziabile femmina che gli si contorce addosso non come un'edera velenosa, ma come una rosa selvaggia. Pochi petali e tanto odore. Tu ti ricorderai, Barbara, che anche noi due guardone andammo ad osservare questo abbraccio sensuale dei due fiumi. E te ne sorprendi. Tu sorridi di te stesso e non sai che cosa ti succede. Non ti sono mai piaciute le città così. Ed ora invece hai solo la voglia di andare oltre, ad arrivare al suo essere. Non sai che non è riuscito a nessuno a farlo, neanche a chi c'è nato. Innamorato, ricambiato come tanti prima di te, al centesimo, al millesimo sguardo, come tanti dopo di te lo saranno, non catturato, ma preso lentamente, per sempre. Ecco, Belgrado è così. questa città strana, volendo, sa fare anche l'uomo. Ma questa è un'altra storia d'amore. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, mi sono innamorata di un gay. Non lo faccio apposta. Appena vedo uno che mi piace, sta tranquilla. Vuol dire che a lui piacciono i maschi. Sai cos'è? L'impossibile piace a tutti. Si chiama Emilio, è bellissimo. Stiamo così bene insieme che non può più fare meno di me. E si arrabbia per questo. Mi dice, ho fatto tanta fatica per scoprire la mia strada e tu adesso mi vuoi confondere? E io gli ho risposto, ma io non voglio niente da te. E lui, le peggiori sono quelle che non vogliono niente. Vogliono tutto. E ma io che voglio veramente? Io voglio quella cosa che con gli etero non c'è più. Voglio il fidanzamento. Voglio l'incompiuto. E poi mi piace calpestare un terreno proibito che non mi spetta. Ma è perché poi mi innamoro solo dei gay? Perché sono gli ultimi veri maschi sono i gay. È l'unico modo anche per non portare le corna. I veri maschi si dividono tra gay che lo dicono e che non lo dicono. E poi ho scoperto la congiura dei maschi. Si amano solo fra loro. È l'equivoco della procreazione che ha creato la leggenda dell'amore fra uomini e donne. Se non fosse per quello, quando mai si volterebbero verso di noi? Almeno stando con un gay le cose sono chiare. L'etero mente. L'uomo no. Certo è un rapporto durissimo, con uno che è maschio due volte, compresi i difetti. Post scriptum. Tanto sono sempre io il più maschio di tutti. Messaggio nella bottiglia. Questo messaggio dice: l'amore è come la droga. Magari. No, è molto peggio. Con la droga è facile. Basta pagare, basta uccidere. Ma in amore lo spacciatore è uno solo e se non vuole... Anzi, peccato, peccato, peccato che coi soldi si possa comprare soltanto il sesso. Magari si potesse comprare anche l'amore. Non mi ami più? Che mi importa? Ti compro. 100 per un bacio, 200-300 per una carezza, se davvero delicata. Un pensiero? Da 500-1000, secondo l'intensità. Bastasse, davvero bastasse pagare. Avanti, fa tu la cifra. Quanto per un sorriso. Poi trovo un mio appunto. Curiosamente avevo 36 anni quando l'ho scritto. Pagherei, sì, qualche bravo uomo, anche con lieve difetto fisico, come si diceva una volta negli annunci matrimoniali, perché mi abbracciasse soltanto, senz'altro pretendere. Oggi sesso tanto, ma chi ci stringe? Chi ci accoglie? Chi ci consola? Capitaneria di Porto. Come richiesto, lo scrittore Giordano Bruno Guerri è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, pronto, Giordano. Barbara. Dimmi. La vita è meravigliosa. Sto per compiere 60 anni e mi sento sempre più piccolo, ma sempre più responsabile. Sono molto diviso fra... la suggestione di aver buttato via un sacco di tempo in cazzate e la consolazione che in fondo le cazzate mi servivano e mi hanno un sacco divertito. Però sono arrivato a un approdo sereno, per la prima volta sempre voglia di tornare a casa, che è una cosa fantastica, perché ho sempre avuto voglia di fuggire da casa. Io la cosa che mi appassiona è la metamorfosi, senza la quale non c'è vita, e non avrei mai creduto, mai, di vedere questo dandy sprezzante, beffardo che sei sempre stato, incline al pessimismo, cioè che da questa crosta uscisse fuori poi questo contadino pieno di vita, questo contadino intellettuale pieno di vita che sei tu, e questo raffinato studioso che voglio dire che impara ad amare la vita, che finalmente non crede più che sia una cosa da sciocchi rallegrarsi infinitamente di ciò che a tutti è dato. Poi è la scoperta che le cose più semplici sembrano un'idiozia, ma la verità è che le idiozie forse sono la verità. Ma no, guarda, io non farei questa distanza tra la differenza tra idiozie e cose. C'è una cosa nel Candido di Sciascia che devo dire, non è secondo me il suo libro più riuscito, ma c'è una frase che vale tutto, che lui ripete continuamente come leitmotiv e continua a ripetere: perché tutte le cose sono semplici. Certo, e le cose più semplici sono le più dolci. Sai, veramente tornare a casa e vedere il bambino che ti corre incontro, ti dice babbo. Qui Capitaneria di Porto. Una certa Barbara chiede della guardiana del faro. Pronto? Sì, sono Barbara. Ciao Barbara, cara omonima. Ciao. Perché mi chiami? Perché ho una bella storia da raccontare. Una storia che assomiglia un po' a una fiaba. Le fiabe sono molto crudeli. Chissà com'è la tua. È fatta un mix. Continua, non è finita. È una fiaba in corso, allora. Che dura da molti, molti anni. Perché io oggi ho 51 anni. E questa cosa iniziò quando io ne avevo 13, perché a 13 anni ho conosciuto il primo amore della mia vita e l'ho conosciuto in un modo molto alla Blues Brothers, della serie Ho visto la luce, e forse credo di averla vista veramente, o comunque mi piace ricordarla così. E questo amore di 13 anni ha avuto una sequenza di tipo epistolare, perché eravamo in vacanza, che è durata diversi anni, con scambio di lettere a mano. Voi due città diverse dunque? Sì. Poi quando ci perdemmo di contatti, diciamo, e poi quando io compii 18 anni ricevetti una sua telefonata e ci incontrammo, ci mettemmo insieme e stemmo insieme 7 anni di convivenza. In questi 7 anni abbiamo avuto tutte le nostre vicissitudini amorose e di passioni. Lui è un musicista, di conseguenza mi ha coinvolto nella sua vita musicale. Però io avevo questa spinta interiore verso il mondo della natura e soprattutto i cavalli, per cui il motivo poi per il quale io l'ho lasciato è perché io avevo bisogno di seguire la mia strada, e l'ho lasciato con grande sofferenza, però l'ho lasciato. Ognuno di noi ha fatto le sue vite differentissime peraltro, e la cosa particolare è che comunque ci siamo sempre rincontrati per caso all'inizio, sempre per caso, proprio perché poi vivevamo nella stessa città, per cui ci si incontrava in metropolitana, sui mezzi pubblici, e naturalmente ci si raccontava, per cui tutti questi anni io so sempre, ho sempre saputo e continuo a sapere lui cosa sta facendo, cosa sta accadendo nella sua vita. Però quando ci sogniamo, e capita con una frequenza tipo ogni 2 anni, ci si sogna, e di solito avviene in contemporanea, ci chiamiamo per sapere se è successo qualcosa. Cerchiamo di vederci e ci incontriamo, ci riraccontiamo tutte le nostre cose e scopriamo sempre che, per esempio, stiamo leggendo lo stesso libro o abbiamo lo stesso corso di pensieri. Noi all'inizio ci eravamo inventati questa cosa del filo d'argento, cioè che c'era questo filo d'argento che ci avrebbe comunque tenuto legati per sempre, veramente fino alla morte. A questo punto comincio davvero a crederci, perché da 13 a 50 anni senza mai perdere il filo è abbastanza particolare. Cosa provi per lui? Ah, grande, grande affetto, grande amore. Abbiamo anche comunque, quando ci vediamo, un'attrazione di tipo sessuale ancora. E fate l'amore? No, non l'abbiamo, in realtà non l'abbiamo mai più fatto, no. E tu uno così l'hai lasciato per i cavalli? No, non vorrei sembrarti Gretta, perché capisco che i cavalli possono essere una passione. In realtà lui, avendo questa forte passione, io ero un po' la sua musa, ero fonte molto di ispirazione, ma non ero mai pensata come possibilità di costruire una vita insieme. Barbara, quando ti mettono su un altare è sempre per sacrificarti, anche non volendo, ma essere una musa vuol dire... Esatto. Vuol dire, e poi tu hai avuto questa famiglia, ti sei formata poi questa famiglia? Io no, non ho mai fatto una famiglia. Lui l'ha fatta la famiglia, lui sì. Per me rimane una storia felice, perché è un rapporto che veramente è magico, cioè mi emoziono tutte le volte che lo incontro, che è anche da parte sua uguale, cioè gli occhi brillano proprio. Quindi appunto il vostro patrimonio è il non avere consumato, ma non posso che dirti che ti invidio, perché una storia è una storia non deperibile. È un cristallo prezioso, io lo tengo sempre una zona riservata a quella cosa. E infatti sì, storie di questo genere si meritano in qualche modo, c'è una forma di libertà che poi sconfina nel miracolo. Grazie, sì. Barbara. Grazie a te. È in arrivo un messaggio nella bottiglia da parte di Anna. Cara Barbara, è venuto a trovarmi mio cugino, del quale mio marito è geloso, non si sa perché. Ci ha lasciati soli, però con la porta aperta. Entrava ogni 5 minuti con una scusa. Ci ha trovati a un certo punto un po' troppo vicini e appena l'altro è uscito ha fatto una scenata di gelosia. Io protestavo. Allora lui ha detto: «Te lo dimostro quanto sei bugiarda». Mi ha infilato una mano sotto il collan e poi ha detto trionfante che si capiva che mi ero eccitata durante la visita. Ha voluto subito fare l'amore. Io però mi sento violentata. Che diritto ha lui di fare come il poliziotto, in un modo così umiliante? Ma io non credo come un poliziotto, io credo come un amante. E credo anche che tu sappia benissimo che è un gioco erotico. Ogni riga della tua lettera ha questo accento della complicità in questo gioco molto semplice che vi siete inventati. Cioè, se l'ha inventato lui, ma lo giocate insieme e anche tu fai la tua parte. Io sono certa che questo racconto è uno dei mille che potresti farmi, tutti piccanti, tutti graziosi, tutti perfette piccole commedie che hanno una sola destinazione, il letto. Sono giochi innocenti, ai quali bisogna avere la grazia di abbandonarsi senza pentirsi subito dopo, perché tu prima ci stai, perché capisci benissimo il disegno di tuo marito, e poi ricorri alla lingua della repressione, violentata, poliziotto. Ma perché? Tu ci stai e quindi va tutto bene. Perché se prendessi alla lettera le vostre parole, innamorati, io farei un grande errore, ovvero l'errore di guidarvi fuori dai vostri piaceri, perché la razionalità non ci entra. E invece la tua lettera è chiara. La tua lettera si lagna e si vanta, si indigna ma si compiace, protesta ma riafferma. È un momento di piacere così perfetto da aver voglia di raccontarla, ingaggiando noi tutti come voyeur della vostra camera da letto. È in arrivo un messaggio nella bottiglia da parte di Giulia. Cara Barbara Alberti, sono 2 anni che mi sono lasciata con un ragazzo, ma ogni attimo penso a lui. Non riesco più a mettermi con un altro. Dopo qualche giorno lo mollo. Quando vedo lui comincio a tremare e mi viene un tremendo mal di stomaco, come se il cuore uscisse dal petto. Sono stata io a lasciarlo la prima volta. E perché non lo so. Abbiamo cominciato a rivederci, ma poi è finita ancora. Il perché non lo so. C'è una cosa, Giulia, che mi entusiasma nella tua lettera, ed è la descrizione semplice, fisiologica, dell'emozione d'amore. È proprio così. Lo sappiamo tutti, ma è sempre piacevole sentirselo ridire, quel pugno alla bocca dello stomaco e quel tremore indecente. È così, è proprio così, e non siamo mai in salvo, neanche dopo 2 anni, neanche dopo 10 dalla fine. Come sai bene tu, piccola fissata, che sei difesa da uno scudo di resistenza imbattibile. Il perché non lo so. Ecco, niente in amore è più sincero, non sappiamo niente. Perché viene, perché va, perché ci lascia, perché torna. Sappiamo soltanto che tremiamo, tremiamo, tremiamo. La guardiana del faro. 6ª e ultima puntata della storia di Davidoff, tratta dal romanzo Sonata a Tolstoi. L'ho scritto io e l'ha pubblicato Baldini Castoldi da Lai. Мне нравится, что вы больны не мной. Siamo in Russia all'inizio del Novecento. Natalia, la più bella donna di Tula, tradisce suo marito Davidoff, il capo della polizia segreta, con un giovane agente di nome Liebiedev. Subito dopo rimane sfregiata in un incidente e la situazione si rovescia. Adesso è lei a essere gelosa del marito e lui, per castigarla del tradimento, le fa credere di avere delle amanti. Una messa in scena molto ben fatta e lei si dispera per l'umiliazione e per la gelosia. Finché un giorno il marito si stanca di quel gioco crudele e decide di confessarle la sua fedeltà. Nello stesso momento Natalia ha scoperto di essere incinta. Mentre lo aspetta per dirglielo, crede di scoprire che lui invece la tradisce con Maria Alexandrovna, la sua rivale di sempre. Per vendicarsi, si fa sorprendere dal marito col suo amante di allora, che intanto è tornato, col giovane Liebiedev. Davidoff li sorprende e uccide l'amante e tiene prigioniera in casa Natalia, perché non crede più di essere il padre del bambino. Con guardie armate la tiene proprio prigioniera in una specie di fortezza finché lei non gli confesserà il nome del padre, ma dato che il padre è lui, Natalia, che è orgogliosissima, si rifiuta di parlargli. Ma Natalia riuscì a scappare e a raggiungere il monastero di Optina per incontrare lo starez Foskin, in fama di santo, e chiedergli la grazia che il marito credesse alla paternità, che ci fosse finalmente pace in quell'amore mostruoso. Lo Stars Foskin, zio di sua madre, era stato l'unico a non condannare i suoi sbagli. Fin da bambina l'aveva amata, sorridendo del suo carattere incandescente. Le aveva anche predetto un solo grande amore e una lunga vita. Ma quando Natalia arrivò al monastero, lo Starez era in fin di vita. La ospitarono, ma non le fu permesso di vederlo. Un monaco le portava notizie di quella morte lenta e dolorosa. Natalia versò molte lacrime di pena. Per la prima volta non pianse per sé, ma per un altro. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Natalia non ebbe il tempo di chiedere allo Starez Foskin la grazia di riconciliarsi col marito, ma ne ottenne un'altra, cui non aveva mai pensato. Lo Starez morì qualche ora prima dell'alba, compiendo il suo ultimo miracolo. Quando Natalia andò a riempire il secchio nel pozzo, l'acqua le rimandò la sua immagine. Lo sfregio era sparito. Si toccò, incredula. Non solo il viso era liscio, senza più tracce di ferita, ma era diventata più bella di prima. Dal fondo del pozzo, Natalia giovinetta la guardava. Era tornata come 18 anni, al tempo in cui Davidoff si appostava per vederla passare. Natalia pensò subito di correre dal marito e mostrargli il miracolo. Sarebbe partita il giorno dopo, ma fu fermata quella notte da un sogno. Natalia sognò che era tornata a casa, ma alla vista della sua nuova bellezza il marito, invece di essere contento, era ripiombato nell'inferno. Una gelosia smisurata gli aveva tolto il senno. Metteva in pericolo la sua carriera per controllare la moglie. Troppi agenti erano impegnati nel darle la caccia, nel sorvegliare i suoi adoratori più audaci. Davidoff stava diventando pazzo. Il bambino era nato e lo trattava da bastardo. La gelosia aveva scacciato l'amore. Marito e moglie ormai erano belve in gabbia. Finché lui, non sopportando più la sua bellezza, le gettò il vetriolo sul volto, sfregiandola. Natalia si svegliò gridando per il bruciore del vetriolo e rinunciò alla partenza. Era certa che quel sogno glielo avesse mandato lo Starez Foskin per indicarle la via. Chiese di restare al monastero senza dare più notizie al marito. Decise di lasciar fare il destino, ovvero ai disegni dello Starez. Le monache accettarono con gioia. Natalia era la prova vivente della santità del monaco. Il bambino nacque Optina. Si sparse la notizia del miracolo. I pellegrini venivano a vederla per toccarle il viso risanato. Спасибо вам и сердцем и рукой за то, что вы меня не зная сами так любите. Un giorno, mentre Natalia riceveva i pellegrini col suo bambino in braccio, notò fra loro un uomo coperto da un ampio cappello. Quando le fu davanti se lo tolse e lei vide risplendere la lucida pelata del marito. Davidoff si mise in ginocchio davanti a Natalia. Natalia gli porse il bambino che agitava le gambette nude, ma Davidoff teneva gli occhi bassi, come ne avesse paura. «Avanti, guardalo», disse la moglie. Davidoff trovò lentamente il coraggio di alzare lo sguardo e vide se stesso. Il bambino aveva i suoi occhi grigi, le sue grandi orecchie e perfino, come lui, sei dita nel piede destro. Si sentì perduto. Ora lei lo avrebbe schiacciato col suo disprezzo. Ma fu il suo ultimo pensiero meschino. Che fosse l'ennesimo miracolo dello Starez Foskin o il primo della sua anima orgogliosa, Davidoff le disse «Perdonami». Poi accarezzò con dolcezza il viso della moglie, come avrebbe voluto fare la sera delle violette. E fu un uomo libero. «За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами». Ah, la Maria è ancora qui. Si è appollaiata qui come un gabbiano. Maria. Ecco. Che dici oggi? Oggi ti posso raccontare la nostra storia, Barbara, che è quella di quando tu mi scrivevi le lettere d'amore per i miei innamorati, oppure per quelli che volevo far innamorare, per conquistarli. Ecco, da sola non ci riuscivo e invece tu eri... Beh sì, quando si fa per gli altri viene sempre meglio. Tu come sei... in Cirano, sì. Ti facevo i testi. Sì, ed erano così belle che ti ricordi che loro mi dicevano: dai Maria, scrivimi ancora, solo che io non sapevo cosa scrivere, quindi ero obbligata a venire da te: Barbara, ti prego Barbara, per favore scrivi e via scrivere. Io lo farei come mestiere, di scrivere le lettere d'amore per gli altri, mi piaceva moltissimo Maria. Ma poi funzionava, a parte che tu, io parlo in un modo diversissimo da te, però loro erano così felici di ricevere queste lettere così meravigliose che non hanno mai messo in dubbio che potevano non essere scritte da me. Cioè, quindi però aspetta, però io scrivevo con la tua voce, non scrivevo nel mio stile. Io scrivevo cercando, parlavo a lungo con te, mi facevo dire le cose, non facevo altro che trasferirle su carta. Mentre Cirano, quando fa i testi per Cristiano, fa lui, è lui che dichiara il suo amore a Rossana. Invece a te di loro dei miei figli non te ne ma io neanche niente. Li conoscevo, spesso neanche li conoscevo, alcuni mi facevano pure orrore. Come il direttore d'orchestra, il primo Alberto si chiamava, lui ha imparato le lettere a memoria dopo 20 anni, se le ricorda ancora. C'erano delle citazioni colte. No, ma c'era il personaggio anche. Che ci eravamo inventate. Ci eravamo inventato un personaggio che si chiamava Mario Disossati. E quindi io. E le lettere le scriveva, era che c'era questo triplo salto mortale, perché erano le tue lettere, però scritte da un ammiratore, da un ammiratore. Da un melomane. Da un melomane ammiratore maschio. Ammiratore maschio che andava ai suoi concerti e quindi portava dei regali, mandava dei regali a questo qua, perché lui, non so, essendo uno anche lui pieno di sé da morire, non so, vedeva in un negozio un manichino con dei vestiti, diceva: ecco, vedi, questo mi piacerebbe, questo manichino lo vorrei comprare, così tutto, la giacca, la camicia, così. Io andavo, compravo questa cosa e facevamo finta che fosse Disossati, questo Mario Disossati, a mandargliela. Tu Barbara hai scritto 3 lettere e dopo 3 lettere lui era steso praticamente. Era steso, avevamo disintegrato la fidanzata. Già, perché gli avevo scritto: ogni Mozart ha il suo Salieri. Esatto. Ovvero sia un invidioso di quando dice Salieri nella commedia di Pushkin, Mozart e Salieri, io sono eletto a fermarlo quando sta per avvelenarlo. Gli avevamo scritto che il suo Salieri e la sua fidanzata se ne liberi. Però perché lo pensavamo veramente, questo mi avevi convinta tu, io non conoscevo l'uno né l'altro, ma per fede mi avevi convinta che fosse il suo Salieri. Comunque si sono dati quelle di Dio. Come dicono, ma si sono picchiati, poverini. Questo è stato il primo, però il primo di una lunga serie, e tutti dicevano la stessa cosa: scrivimi ancora. Oppure mi dicevano: sì, perché sai, io ho moltissime donne e quindi io sono come una puttana, scrivimi ancora. Allora tu Barbara mi scrivevi: magari tu fossi una puttana, io ti comprerei il tuo malumore del mattino, comprerei la piega delicata del tuo gomito, comprerei un tuo pensiero segreto da 6 a 700 mila lire, se erano ancora lire, lo pagherei così, senza volerlo sapere. Un milione, un ti amo, falso come il diavolo ma sonoro, ti amo, 2 milioni, 3 milioni, ecco, così ti pagherei così. E questi diventavano pazzi: scrivimi ancora. Anche perché quando gli uomini ti trattano come carne da macello, come succede a me spesso, dopo ti vendichi. Poi io sono emiliana, sì, vendetta, tremenda vendetta. Ti vendichi. E così ho fatto anche con, invece, un altro, ho elaborato un'altra cosa. Ho fatto corrispondere 2 miei amici, amanti, tramite il meccanismo degli SMS. Cioè l'uno ha cominciato a mandare degli SMS amorevoli a me. E io spedivo l'SMS a un altro. Ero solo il tramite. Come se fosse tuo. Lo inoltrava un altro, come se fosse mio. L'altro rispondeva, il mio telefonino era solo un tramite, l'altro rispondeva e io mandavo l'SMS all'altro. E questi qua si piacevano da morire. Erano diversissimi. Uno era modenese, parlava in dialetto, mi mandava dei messaggiacci in dialetto belli rozzi, di quelli tagliati proprio con l'accetta, così. L'altro invece era un raffinato tedesco, che sapeva tantissime lingue, così, però loro si piacevano nella loro essenza proprio. E credevano tutti e due di parlare con te, invece parlavano tra di loro. Tra di loro, sì. Quanto sì, è durata? Sì. È durata 3 mesi, così imparano. La prendo in giro e dopo è la punizione durissima, perché dopo rido anch'io. Si piacevano moltissimo. Ma non le fate fidanzare? Sarebbe stata una storia bellissima. No, non le fate fidanzare. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti.